Siamo in collegamento con Olivier Depuis, già deputato europeo e presidente del Partito Radicale Transnazionale, che si è occupato essenzialmente in questi anni della questione cecena. Sono ormai 10 anni che la guerra in Cecenia è andata avanti. I giornalisti parlano di 2 conflitti separati che comunque nel totale hanno ucciso tra il 15 e il 20% della popolazione cecena. Olivier Depuis, quali sono le iniziative politiche intraprese in questi anni? Le iniziative sono intanto iniziative di informazione, tentare di far conoscere quello che accade in Cecenia e soprattutto quello che accade dalla seconda guerra, quella che è cominciata nel 99 su iniziativa dell'allora primo ministro Vladimir Putin, poi in seguito e anche grazie direi al lancio di questa nuova guerra lui è diventato presidente e a differenza del primo conflitto, la prima guerra, questa seconda guerra è molto meno conosciuta. Nel febbraio 2003 c'è stato un appello per un'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite avanzato dall'ex ministro degli esteri del governo ceceno. Questo appello è stato sottoscritto da 145 parlamentari europei, soprattutto grazie all'iniziativa di Olivier Depuis. Al momento della sottoscrizione, era il febbraio 2004, lei disse qualcosa comincia a muoversi. È ancora della stessa opinione a distanza quasi di un anno? Qualcosa si è mosso sicuramente durante questi mesi, nel febbraio, nel marzo di quest'anno. Intanto il Parlamento europeo ha riconosciuto la deportazione del 44, quella che fu organizzata da Stalin, come un atto di genocidio. Questa è la prima volta che accadeva, il primo Parlamento che l'ha riconosciuto nel mondo, e ha anche chiesto, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di studiare questo piano di pace redatto dal ministro degli esteri Akhmadov, ma fatto proprio dal presidente Maskhadov, quindi dal capo della resistenza cecena. E purtroppo dopo 8 mesi, 10 mesi non abbiamo avuto risposte né da parte della Commissione europea né da parte del Consiglio europeo, cioè neanche uno studio quanto alla fattibilità, alle cose che potrebbero essere migliorate, modificate in questo piano perché potesse essere realizzato. L'unico elemento che un po' ci può dare un minimo di ottimismo è la faccenda ucraina, nella quale per la prima volta l'Europa e l'Unione Europea in particolare, ma anche poi gli Stati Uniti, hanno dimostrato di tenere su una posizione. La posizione iniziale era che le elezioni fossero delle elezioni farse, e questa posizione non è cambiata nei giorni successivi. Al contrario, abbiamo visto una fermezza attraverso Javier Solana, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, che è stato una parte molto attiva e molto importante, credo, nell'esito della crisi ucraina. Quindi sembra una cosa molto lontana dalla Cecenia, ma l'interlocutore è sempre lo stesso. Sappiamo benissimo dell'ingerenza del presidente Putin nell'Ucraina, e quindi vedere per la prima volta, dopo anni in cui Putin era incensato come l'uomo della nuova Russia, l'uomo che avrebbe risollevato, riorganizzato, democratizzato la Russia, io credo che il fattore Ucraina ha aperto gli occhi a molti. Evidentemente la questione cecena è molto più complicata. La Cecenia, in termini di diritto internazionale, è tuttora parte della Russia, anche se credo che dal punto di vista proprio del diritto internazionale è una cosa molto contestabile, come è stata contestata da giuristi eminenti. Quanto può influenzare da un punto di vista politico europeo la special relationship che Berlusconi ha ormai ufficialmente instaurato con Putin? Anche se teoricamente si potrebbe immaginare che per via appunto delle relazioni che sono positive tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente Putin, si potrebbe pensare che grazie a una intermediazione, un'azione del Presidente del Consiglio, si possa andare ad affrontare la situazione. Io credo purtroppo che non sia così, perché la questione cecena non è negoziabile non da parte della Russia, ma da parte del presidente Putin. Il presidente Putin indica la Cecenia come un focolare dove Al-Qaeda e in generale il terrorismo islamico ha campi di addestramento e comunque conduce una guerriglia accanita contro le truppe cosiddette regolari russe. E qual è, secondo lei, il legame vero che c'è tra il terrorismo islamico e la politica delle superpotenze, quelle della Russia da una parte e gli Stati Uniti ovviamente da quell'altra? Ma intanto sulla questione del terrorismo, credo che quando le autorità russe affermano questo, intanto si danno una martellata sui piedi, perché affermare che ci sono campi di addestramento in Cecenia equivale a riconoscere che non sono in grado di controllare le proprie frontiere. E in particolare le frontiere della Cecenia, che sono frontiere particolarmente facili da controllare, nel senso che sul confine con la Georgia, che è l'unico confine esterno della Cecenia, perché tutte le altre frontiere sono frontiere interne allo Stato russo, cioè una frontiera con il Dagestan, una frontiera con l'Ingushezia, una frontiera con la Russia meridionale dall'altra parte. Il quarto lato è il lato che dà su la Georgia, e con delle montagne che vanno fino a 5.000 metri, e con quindi l'incapacità totale, intanto durante l'inverno, di passare attraverso queste montagne, e poi grande difficoltà durante l'estate, e per di più con gli strumenti militari di sorveglianza delle squadre di guardie di frontiera miste georgiane e russe, con osservatori dell'OSCE che è dotati di strumenti di sorveglianza estremamente moderni, che sorvegliano questi 100-150 chilometri di frontiera. È il luogo meno adatto nel mondo per questo tipo di cose. Ciò non vuol dire che non ci siano alcune decine di combattenti che sono venuti di altri paesi, che sono lì da ormai diversi anni, che non escono perché non possono più uscire, ma che stanno combattendo con la resistenza cecena, ma sono alcune decine di persone. Quindi non si è verificato il fenomeno dei Mujahideen come successe ad esempio in Bosnia? Assolutamente no, e dal punto di vista finanziario il ragionamento è anche lo stesso. Se quando i russi parlano di collegamenti di questo tipo con organizzazione Al-Qaeda o simile, e sono anche loro a controllare i flussi finanziari normali, nel senso che non possono arrivare delle staffette con dei soldi in Cecenia per via delle difficoltà di cui ho parlato prima, e quindi se ci sono dei trasferimenti di soldi devono per forza passare per Mosca, e quindi sicuramente possono essere controllate da Mosca. Dal punto di vista organizzativo è un terrorismo, questo di questa piccolissima minoranza dei combattenti ceceni, è un terrorismo del tutto nazionale, che poi non ha nessun obiettivo simile a quello che possiamo ritrovare in alcune parti del Medio Oriente, che è quello della jihad, della guerra santa contro la cristianità, eccetera, eccetera. Lì è un terrorismo di tipo nazionale, cioè molto più simile a quello palestinese, anche se quello palestinese in alcune sue frange è contaminato anche da un estremismo più di tipo Al-Qaeda, ma quello ceceno è tipicamente un terrorismo che si è visto in tante lotte di liberazione nazionale. Con questo evidentemente io non giustifico questo terrorismo. Ringraziamo Olivier Depuy da Bruxelles.